La realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Iniziamo questa grande manifestazione! Indietro non si torna! Nella notte tra il 3 e il 4 giugno dell'89 le proteste iniziate dagli universitari nella piazza centrale di Pechino terminarono con centinaia, forse migliaia di morti. 20.000 militari, oltre 100 mezzi pesanti, hanno sfilato al suono dei 1.500 uomini della fanfara russa. Mosca celebra il giorno della vittoria sul nazismo. La piazza rossa è il cuore dei festeggiamenti del 9 maggio. Decisione del Gran Consiglio del Fascismo. Nella seduta notturna dell'11 dicembre dell'anno 16 a Palazzo Venezia. A molti sicuramente scorrerà una lacrima di commozione sentendo il ricordo e la rievocazione di antiche adunate di piazza, altri si alzerà un moto di sdegno per la stessa identica ragione. Devo dire che nel mondo moderno, ma anzi nella storia contemporanea, diciamo meglio, la piazza assume un senso molto particolare. Lo scendere in piazza, ancor più che l'andare in piazza rispetto alla versione anteguerra, ha un senso comunque di appartenenza, ma ancora di più di antitesi rispetto a un sistema costituito. Le piazze si riempono, riusciamo a riempire le piazze, poi andando avanti nel tempo le piazze sono riempite un po' meno, poi è cominciata la computazione dei numeri in piazza, poi è cominciata la verifica video di quante persone scendessero in piazza, poi assieme alle piazze concrete si è cominciato a parlare di piazze non più concrete, di piazze inconcrete. Il termine piazze virtuali probabilmente è improprio, non lo userei. È la piazza non concreta, sono le persone che comunque mostrano una loro forma di presenza attraverso gli strumenti di comunicazione della rete. Oggi qual è il punto di riferimento della piazza? Chi ancora scende in piazza? Ma secondo me in piazza in maniera concreta scendono le persone che sono fortemente modificate o hanno fortemente motivate o hanno una così forte, pressante istanza che li coinvolge di persona. I licenziati, i cassa integrati, gli esodati, le persone che devono pagare un tributo, quelli che hanno subito una forte ingiustizia, quelli che appartengono a categoria in minoranza di persone che devono subire perché sono deboli, sono poche, scendono in piazza. L'ascesa in piazza ridotta alla sua essenza, alla sua forma simbolica, a una rappresentanza che va in un posto fortemente nevralgico del potere, è quella che vediamo noi che abitiamo nella città di Roma molte volte, transitando per Montecitorio. C'è sempre, al di là della transenna, dietro l'obelisco, tenuto a distanza comunque dalle forze dell'ordine che presidiano la piazza, anche giustamente dato gli ultimi episodi di sangue, un pannello più o meno un capannello più o meno sparuto, più o meno variegatamente composto di persone con dei cartelli, con dei tavolini, altre volte con delle tende, con degli accampamenti, che stanno lì a presidiare la piazza, a tenere fermo un presidio in piazza per essere notati dagli uomini delle istituzioni che entrano e escono dai palazzi e dovrebbero gettare un occhio, interessarsi di persona a quello che sta accadendo. Quindi è la summa, è la sintesi di un moto di piazza, una rappresentanza. A volte guardano, a volte conguardano, la maggior parte delle volte gli interessa fino a un certo punto. Beh, questa mattina vogliamo innanzitutto domandare al pubblico qual è ancora la loro residua percezione del valore di scendere in piazza. Perché scendereste in piazza? Quando è l'ultima volta che siete scesi in piazza? La generazione dei 50-60 anni oggi era abituata a un periodo in cui tutti i giorni c'era una piazza comunque da frequentare. In particolare il sabato era il giorno delle manifestazioni. Nessuno dai 15 ai 50 anni si poteva sottrarre dall'andare in piazza a manifestare. Era il sabato pomeriggio, ci si vestiva da piazza, ci si attrezzava da piazza o a seconda del livello di militanza, di partecipazione, ci si armava da piazza e poi si andava in piazza. Oggi ancora si scende in piazza. Le ultime elezioni, l'ultima campagna elettorale, le elezioni politiche hanno visto la piazza come elemento preponderante di una novità che è il Movimento 5 Stelle, che si è mosso parimenti su due piazze, una fisica concreta in grandi comizi, Fiume di Grillo, e un'altra incorporea, la rete, a torto a ragione, elemento comunque di connessione. Beh, oggi voi cosa ne pensate della piazza? Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano è uno storico, un filosofo della scienza, spesso nostro ospite perché ci dà delle illuminanti intuizioni per trattare argomenti che serpeggiano nell'immaginario generale. Oggi perché parliamo di piazza, Stefano? Perché è urgente parlare di ragione. Io credo che tra storicamente la piazza e la ragione ci sia un vincolo profondo. L'aveva capito Aristotele, per esempio, quando già nella sua Politica addirittura estendeva il ragionamento della piazza all'immagine della polis, e diceva che la polis si compone di uomini differenti, cioè è la capacità di tenere insieme la diversità. L'avevano capito gli illuministi, pensa a Lessing o pensa a Kant, quando riconoscevano nella ragione la possibilità stessa del confronto. Senza confronto non c'è ragione, non c'è pensiero, non c'è libertà. Ora, quindi, capire che cos'è la piazza, io credo sia il modo per ricominciare a indagare cosa sia la ragione nella sua dimensione propriamente pubblica, e in altre parole definire che cosa sia oggi, nel contesto delle nuove tecnologie, la libertà di pensiero e il senso della cittadinanza politica. Noi abbiamo attraversato però negli ultimi decenni, Stefano, parlo della nostra storica percezione legata alla nostra esperienza umana individuale, una diversa concezione della piazza. La piazza è stato il luogo dei grandi moti sociali, delle grandi riforme sociali, delle grandi moti legati alla giustizia sociale, ai diritti dei lavoratori, in un primo tempo. E si era memori di una piazza che in realtà era il luogo della coercizione, del consenso attraverso l'obbligo di andare in piazza. Le grandi adunate oceaniche del fascismo non erano assolutamente da intendersi come luogo della ragione, la ragione come sua prima molla, quella della libertà di potersi esprimere o di potersi essere in qualche maniera raggiunta o messa come obiettivo. Poi c'è stato il movimento della cosiddetta forte contestazione e reazione di piazza, in cui la piazza era sembrava la irragionevolezza totale, andare in piazza a scambiarsi revolverate, sassate, bottiglie molto fra coetanei semplicemente per un'appartenenza diversa, legati a un comune senso di sovvertimento, è stato un momento che tutti oggi consideriamo come interessante, importante, probabilmente anche necessario, ma totalmente folle. Poi si è lentamente diluito il senso della piazza. Nelle piazze ci si va organizzati, ci va chi organizza più pullman, chi organizza più consenso. La televisione è il certificatore della potenza di piazza. E poi alla fine si arriva alle piazze, di cui parleremo tra poco, le piazze in concrete. Ecco, quanto la ragione si mantiene vigile in questo veloce rozzo excursus che ti ho fatto? La ragione si mantiene vigile quanto più la piazza è il luogo del dissenso e non della celebrazione. Quelle che tu hai elencato sono state spesso, da una parte o dall'altra, celebrazioni di ideologie del potere che sotto varie maschere si è presentato. Il Lessing che ti citavo prima, uno dei più grandi illuministi tedeschi, diceva che se gli uomini non avessero mai litigato su nulla al mondo sarebbero d'accordo. Ecco, la piazza è il luogo del commercio, non solo delle merci, ma anche di quelle idee, senza del quale commercio è impossibile un accordo. Non c'è pacificazione senza conflitto. E questa è una lezione che credo, soprattutto in epoca in cui della pacificazione si fa retorica, dovremmo tenere presente, riappropriandoci della piazza come luogo del confronto e non come luogo della celebrazione. Vediamo se riusciamo a dare un senso alle grandi adunate di piazza, al senso di piazza, alle vostre esperienze di piazza. Vado in piazza, come tornerò dalla piazza. Questi sono le domande, gli inquietanti interrogativi hanno fatto: dov'è tuo figlio? Mio figlio è andato in piazza, cosa succederà? Come tornerà? Lo arresteranno? Tornerà ferito? Queste erano angosce che probabilmente coglievano genitori di un paio di generazioni fa. Oggi è la stessa cosa. Giorgio, buongiorno. E buongiorno. Io l'ultima volta sono stato in piazza a manifestare era per pro Mani Pulite. Mi sembra il 93-94. Sì, erano quegli anni, sì. Ho perso il conto. E comunque poi non ci sono più sceso in piazza perché ho capito che la gestione di questo pro Mani Pulite erano faccendieri che tiravano l'acqua al proprio mulino. Cioè era un ritorno in piazza dopo anni che aveva abbandonato questa pratica? Era solito andare in piazza o non era mai proprio sceso in piazza? No, da ragazzo sono sceso in piazza tante volte, che diciamo è un modo un po' anche un po' violento, diciamo. Quindi no? Erano passati 20 anni circa dalle sue ultime scese in piazza? Certo, famosi anni di piombo, io ero in piazza anch'io a menare le mani. Ecco, mi dà un attimo, visto che lei è il primo a chiamare, ma ne seguiranno altri, un senso di ricordo di cos'era lo scendere in piazza in quegli anni. Il sabato era il giorno canonico delle manifestazioni, ma gli altri giorni, ogni giorno era buono che si accendesse un focolaio, accadesse qualcosa, ci fosse un episodio, un compagno o un camerata ferito, ucciso, arrestato, era un motivo per andare a far casino. Certo, a quell'anni tutto era lecito, tutto era, diciamo, una scintilla che poteva fare divampare un incendio, ecco, e tutti eravamo pronti a qualsiasi cosa, sia a destra che a sinistra, perché c'era, diciamo, il mondo diviso in due, le ideologie occidentali e comuniste, capito? Eravamo sempre pronti. Ognuno era pronto per la sua parte. Sì, senta, sì. Non le sembra che sia anche il caso di ricordare quella che era l'attitudine o il prepararsi alla violenza quotidiana che attrezzava chiunque? Insospettabili signorine di buona famiglia, ragazzi, figli di tranquilli e onesti lavoratori, come appunto qualsiasi, c'erano poi quelli più facinorosi, quelli più accesi, oggi magari li vediamo direttori dei giornali, personaggi di spicco nel movimento nell'ambiente dell'industria, dell'imprenditoria, del pensiero, editorialisti di grandi giornali, uomini di pensiero, beh, allora erano quelli che fomentavano, che organizzavano, ma la media era una media che comunque doveva essere pronta a uno scontro. Poi non si capisce perché, chiedo, la 30 anni di differenza, il senso di scendere in piazza, non so quale sarebbe la risposta dal suo punto di vista. No, dal mio punto di vista, siccome c'erano due blocchi, est e ovest, pronti a, diciamo, c'era la guerra fredda, però era tutto pronto anche per la guerra calda vera e propria, e allora, diciamo, gli intellettuali dell'epoca gestivano le cose o pro o contro a una o all'altra fazione, tutto lì. E noi eravamo a rimorchio di queste, diciamo, ideologie. Ecco. Lei come si preparava ad andare in piazza? Fisicamente, qual era l'organizzazione logistica e tecnica? Diciamo, io personalmente negli anni, diciamo, 60, dal 68 fino al 75 ero abbastanza tosto, perché andavo in palestra e facevo anche un po' di arti marziali. Quindi si allenava per lo scontro in piazza? Certo. Era come un soldato che si preparasse alla guerra? Sì, e come faceva una parte e l'altra, è la stessa cosa. E si armava per andare in piazza? No, sempre a mani nude. A mani nude, l'era per il combattimento a mani nude. Ma c'è che comunque arrivava a scuola la mattina con zaini pieni di ogni ben di Dio, dai bulloni alle fionde, ai sassi, ai bastoni, alle sprane. Quelli vari erano i ragazzi un pochino più giovani, perché io sono del 50. Ah beh, lei quindi ha fatto un iter abbastanza ponderato. Grazie. Sì. Franco. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono sceso in piazza una sola volta nella vita, neanche quando andavo a scuola gli scioperi non li facevo assolutamente, io nella mia classe. Quando è sceso? Quando è stata la guerra del latte nel 96, 97, 98, con le manifestazioni per le quote latte. Quella è stata una manifestazione che ho fatto, convinto, però il fatto è che mi sono reso conto che le manifestazioni non servono a niente se poi non c'è un interesse politico a usare queste manifestazioni più in alto. Ecco, quindi lei Franco, sì, sì. Scusi, lei è nuovo delle attività di piazza, come si organizzò quella mattina per andare a protestare in piazza? Con i bidoni del latte da versare? No, era... Con i manici di piccone pronti? Come... quei trattori andare a bloccare l'autostrada, a fare i presidi, andare a Linate, poi all'aeroporto di Venezia. E fu efficace lei quel giorno nel contrastare? Fu efficace, sì, perché eravamo in tantissimi, c'era tutti gli allevatori del nord Italia, per cui fu. Va bene, abbiamo avuto due esempi variegati di discesa in piazza. Vediamo un po' di dare una maggiore collocazione storica. Uno dei due nostri interlocutori, ascoltatori, ha detto: ma erano gli anni dei grandi blocchi, quindi tutto questo a discesa riverberava in atteggiamenti individuali. E quel signore andava in karate a allenarsi nelle palestre di karate per lo scontro fisico, altri pure andavano in campi scuola, probabilmente quelli che erano le prime linee, gli altri si attrezzavano come potevano, anche semplicemente indossando i simboli esteriori dell'appartenenza, gli eschimo o le giacche militari, i passamontagna come i baschi marziali e via dicendo. Giampiero Piretto, buongiorno. Buongiorno a voi. Il professor Piretto è docente di cultura russa e metodologia della cultura visuale all'Università degli Studi di Milano. È autore di un volume di cui abbiamo parlato qua in anteprima, La vita privata degli oggetti sovietici, Sironi Editore. Allora Giampiero, vediamo se tu ci riesci a dare qualche elemento storico sull'organizzazione delle piazze. L'Unione Sovietica diciamo, tutto il periodo del regime sovietico aveva come centralità il grande momento della piazza, dalla sfilata militare alla adunata appunto delle persone che andano lì a dare forza e consistenza al grande impero. Sicuramente sì, quindi parliamo della Piazza Rossa, che è stata per una settantina d'anni la piazza per antonomasia dell'impero sovietico e di tutto il mondo socialista che attorno a quell'impero, che da quell'impero dipendeva e traeva ispirazione. Nei 70 anni di esperimento sovietico anche le piazze hanno subito mutazioni e cambiamenti. Se pensiamo alla spontaneità delle prime discese in piazza degli anni 20, immediatamente successivi alla rivoluzione d'ottobre, quando la Pravda scriveva l'asfalto mandava scintille per la vivacità e la grande partecipazione popolare, siamo poi passati, citando una metafora bakhtiniana, dal carnevale al teatro. Quindi lo spirito popolare è stato progressivamente incanalato in una spettacolare manifestazione e con l'ascesa al potere di Stalin la Piazza Rossa è diventata un grande palcoscenico per gli occhi stessi di Stalin e del Politburo. Questi immobili sul mausoleo di Lenin, dall'alta tribuna del mausoleo di Lenin, rimiravano il popolo sovietico che sfilava, che scendeva in piazza quindi per manifestare il consenso, non certo per cercare il confronto, come ricordava Morigi in precedenza. Non dimentichiamoci che per quanto organizzata, per quanto spettacolare, questa discesa in piazza suscitava un grande entusiasmo in un'altissima percentuale di coloro che erano chiamati. Ricordiamo che le date fatidiche erano quelle delle feste nazionali, quindi 1 maggio, 7 novembre, i grandi anniversari, oppure al di fuori della politica, una data fatidica fu il 13 aprile del 61, dopo lo storico volo di Gagarin nello spazio. Quindi era una liturgia collettiva più che altro. La gente aveva l'effetto quasi magico della grande liturgia, tantissime persone che vestono la stessa nera, hanno lo stesso vessillo, dicono lo stesso slogan, è una grande forma di rituale. Chiaro che a livello emotivo ci sono dei riscontri, la gente può entusiasmarsi, può emozionarsi o può esprimere comunque un suo sentirsi trascinato. Pensa quanto poco tempo è passato, arrivando all'ultimo strascico doloroso di questa grande festa del 1 maggio, l'ultimo concerto in piazza il 1 maggio qui a Roma, che è stata la celebrazione della metafora irrisoria del 1 maggio, la canzone di Elio Storetese, che in sé già decretava la partecipazione al rituale nel quale non si credeva più. Melog, la realtà condivisa. La piazza ha un'importanza immensa, perché è portavoce di tutte le ingiustizie. Lì critichiamo il governo, E se arriva gente di fuori, la presentiamo a tutti. Informiamo sulla nostra opinione, su quello che accade. Diciamo nomi e cognomi. Nella piazza si produce il vero miracolo della resurrezione. Quando sei nella piazza senti che hai una forza che ti accompagna. Anche se dovessi andarci con la sedia a rotelle. Questa è una delle madri di Plaza de Mayo che protestavano contro il regime in Argentina, soprattutto per le scomparse dei loro figli. Cade proprio puntualmente a pochi giorni dalla morte dell'ex dittatore argentino Jorge Rafael Videla, che è morto in prigione, dove scontava l'ergastolo proprio per le atrocità, crimini che non ha mai rinnegato, tra l'altro. Però allora fu un moto di piazza che permise di dare una testimonianza verso il mondo esterno di quello che era accaduto in Argentina. Questa mattina parliamo di piazza in tutte le sue declinazioni, dello scendere in piazza, del partecipare alla piazza, del sentire ancora la piazza come il luogo della ragione, in cui la ragionevolezza, se insultata, se vilipesa nei luoghi del potere, viene recuperata attraverso una presenza in piazza, in alcuni casi, non è sempre così. Antonio, buongiorno. Ah, buongiorno carissimo, sono da Rimini. Niente, per quando si parlava delle manifestazioni, io sarei molto fiero di sentire delle manifestazioni quando sono produttive, ma quando sono a scopo di lucro a me non mi stanno bene, cioè a me offendere gli altri non mi piace. Qual è una manifestazione a scopo di lucro? Una piazza? Come ieri sera il fatto del blog di Grillo. E che c'entra la piazza? No, scusi. No, la piazza no, perché lui nelle piazze fa queste manifestazioni e le manifestazioni vendono degli aggeggi che fanno comodo per loro, per il partito. Che vuol dire degli aggeggi? Allora, no, scusi, in qualunque piazza i gadget si vendono. Sì, non è che devo fare le difese d'ufficio di Grillo, ho detto tutto il mio pensiero su quello che penso delle demagogie di piazza, ma lei ha visto ieri sera probabilmente la Gabanelli e il giorno dopo, come da buon indivanato, esprime il suo parere, ma è fuori tema, non sta dicendo nulla di intelligente, mi scusi. Se ha qualcosa da dire su una sua esperienza di piazza, ma vendono degli aggeggi, Grillo ha usato la piazza, ha ripreso la piazza, non può essere d'accordo o non d'accordo, io quasi nulla sono d'accordo, però ha ridato un senso alla partecipazione di piazza, la gente andava in piazza, vuoi perché lui ritrovato un contatto fisico, carnale, veemente con la piazza, ha cavalcato il dissenso, quello che vuole, ma poi in piazza faccia quello che facciano tutti gli altri. Se allude a vendere, gli altri vendono i cappellini, le spillette, gli oggetti, la gadgettistica. Forse io volevo allacciarmi a un altro discorso. Comunque, sì, lei vuole dire che gli sta sulle palle, ma è lecito dirlo, ma come vale per qualunque altro, ma non è in tema questa mattina. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno a tutti, Luca. L'ha un po' detta in maniera approssimativa al nostro ascoltatore, ma voleva parlare comunque di un rapporto che oggi sembra poco chiaro, poco definibile e probabilmente o ipervalutato o mal espresso tra piazza concreta e piazza inconcreta. Ricordo che Andrea Rossetti è professore di filosofia del diritto e docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. Vediamo di chiarire meglio il concetto. La transumanza del consenso, del dissenso, la piazza concreta, quella inconcreta. Sì, come dicevi tu prima all'inizio della trasmissione, no, questa l'idea, parlare di internet come piazza è una metafora ovviamente. È interessante però vedere quali tratti accomunano la partecipazione in piazza e la partecipazione online. Secondo me sono fondamentalmente due. L'anonimato, perché quando si scende in piazza si è anonimi esattamente come si è anonimi quando si è in rete. Attenzione, anonimi non vuol dire che non si è potenzialmente riconoscibili, ma vuol dire che io non so il nome di quello che guardo in quel momento, non so chi è quello che è accanto a me in quel momento. Non a caso, Andrea, ci sono tecniche di camuffamento, si va mascherati, si viene identificati con le telecamere negli ultimi moti di piazza, anche se uno va in piazza a manifestare per la squadra del cuore. Se uno è mascherato può essere fermato, arrestato, identificato, anche in rete, in maniera un pochino più difficile però. Un pochino più difficile, però non bisogna mai dimenticare appunto che, a differenza di quello che molti credono, in realtà in rete non si è mai anonimi, no? C'è il solito indirizzo IP che è un numero che ci identifica in maniera univoca, insomma, nel senso che se noi postiamo qualche cosa, se non prendiamo particolari precauzioni, la polizia può comunque risalire al computer dal quale quel commento, quell'insulto o quel post è stato stato effettivamente prodotto. Anche qui, no, esattamente come nella piazza, la polizia di per sé non mi conosce, ma mi può in qualche modo riconoscere, instaurare un procedimento perché la mia identità diventi nota. Il secondo tratto che secondo me accomuna questa è la piazza a internet è la forza del numero, cioè io vado in piazza perché non sono da solo e allo stesso modo su internet difficilmente un insulto, difficilmente un post resta solitario, no? Effettivamente io insulto colui o coloro che sono già stati da altri insultato, rafforzando così la mia idea. Questo meccanismo è stato uno dei primi meccanismi che ho studiato in rete, insomma, perché l'utilizzo della rete, e probabilmente questo è vero anche per la piazza, no? Estremizza le posizioni delle persone, perché le persone si vedono più ben accette qualora esprimono posizioni più radicali, e quindi questo innesca un meccanismo di radicalizzazione delle opinioni in rete e probabilmente anche in piazza. Io prima avevo espresso, ma è una mia particolare mania lessicale, il termine piazza virtuale non lo trovo esatto, il termine virtuale è stato negli ultimi decenni usato molto a sproposito, nulla è virtuale, non è una piazza virtuale, sono persone che esprimono collettivamente e ognuno singolarmente a casa propria davanti al suo computer una loro opinione, e questo crea l'idea che esista una piazza, ma la rappresentazione virtuale di una piazza è ben altra cosa, non appartiene a questo tipo di realtà, o mi sbaglio? Indubbiamente, in questi giorni vediamo parlare della rete attraverso moltissime metafore, no? La rete come bar, la rete come salotto di casa, la rete come piazza, sono appunto metafore queste che catturano semplicemente un aspetto particolare. Internet è fondamentalmente una rete di relazione tra le persone, solamente che noi non riusciamo ancora bene a capire questa rete, i meccanismi che regolano queste relazioni, e quindi usiamo delle metafore per agganciarci a idee che già abbiamo. Io credo che se i nativi digitali avranno una differenza rispetto a noi, sarà questa capacità, cioè non useranno metafore per spiegare internet e la rete, ma useranno la rete come metafora di altre cose. Ecco, viva Dio, non si parla più della rete come qualcosa che è il riflesso di una realtà concreta che noi conosciamo. Il nativo digitale finalmente parlerà della rete come tu, quando ti chiedo che ore sono, guardi l'orologio, non è che mi stai a dire queste lancette segnano lo scorrere di una convenzione che è il tempo. Non è esattamente così. Allora, Claudio Ricci, buongiorno. Buongiorno. Allora, Claudio Ricci si occupa, è un marketing manager di Roma e organizza eventi non convenzionali in Italia, tra cui i flash mob. Io ricordo, perché la mia età di questo mi segna, che flash mob un 10-12 anni fa, quando se ne cominciò a parlare, era qualcosa di totalmente clandestino. Pochi eletti ricevevano il messaggio tramite una newsletter molto limitata, ci si avviava in maniera circospetta nel luogo, non si capiva chi fossero gli altri partecipanti fino all'ora X, in cui tutti compivano un'azione collettiva che dava l'idea dell'esplodere in quella piazza. Oggi non è più così. Sì, esattamente, no, non è più così, o comunque non lo è quasi mai, nel senso che in molti casi i flash mob vengono organizzati in un modo tale, utilizzando appunto i social network, che l'informazione... Ma tutti lo sanno che c'è il flash mob, però. Esattamente, lo sanno tutti quanti, quindi quella caratteristica in qualche modo è andata persa, ne ha assunte delle altre, ma quella caratteristica in particolare è andata persa. Che ha l'effetto sorpresa. Mi ricordo un flash mob famoso per via del Corso a Roma, uno dei primi, in una libreria, la libreria Mondadori, mi pare così. Nessuno si accorse prima che accadde il flash mob, cioè tutti improvvisamente hanno cominciato a dire delle cose, a ballare, adesso non ricordo bene, ma c'era la calma assoluta. Prima pian piano andavano tutti a chiedere dei libri inesistenti al banco del libraio, che non capiva, diciamo, volerei, che ne so, Le disavventure di Pinocchio, cose del genere, e si cominciava a creare un senso di angoscia. Poi all'improvviso tutti esplosero col flash mob, ma fu una cosa totalmente improvvisa. Oggi invece il flash mob è qualcosa che è codificato in qualche maniera. Melog, la realtà condivisa. Ecco, stiamo analizzando le variazioni, le mutazioni della partecipazione di piazza attraverso i decenni, le modalità, dall'ascesa concreta, dall'ascesa armata, dall'ascesa pacifica, dalla discesa attraverso la rete alla discesa organizzata come evento che dovrebbe sconvolgere la quiete di un ambiente urbano, che è appunto il flash mob. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, io sono Maurizio, ho 53 anni, vivo a Roma e quindi diciamo ho un ricordo diretto della stagione delle manifestazioni del sabato pomeriggio. Ricordo l'Eschimo, ricordo lo Stalin che sostanzialmente era un mattarello travestito da manico di una bandiera. Cioè mattarello nel senso, per quello per fare la sfoglia o un... No, quello per dare torturate. Ah, ecco, dare torturate. Lo Stalin si chiamava? Ecco. Sì, si chiamava lo È Stalin. Il classico manico da piccone, quello si compra in ferramenta. Esatto, tagliato a metà con attaccata una bandierina rossa. Sì, faccia ridere, non strano, una bandierina con un manico lungo 60 centimetri, però quello era. Quello era. E poi invece? E poi invece ricordo le cose che facevano gli indiani metropolitani, che erano l'area, diciamo, venivano considerati l'area del movimento quella creativa e pacifista, ecco, che mi sembravano molto più divertenti, francamente. Si rideva, si scherzava, ci si faceva un sacco di canne, insomma, quello era. Sì, poi rimane nel tempo questa attitudine, lo so. Sì, è rimasta, però è un po' modificata, insomma, si è un po' modificata. Ecco, secondo me il flash mob in qualche modo è l'erede diretto, però forse è rivenuto fuori come una specie di fiume carsico dalla terra di quell'esperienza là. Un'esperienza, fine, diciamo, di più fantasiosa, che la manifestazione non deve essere una guerra, ma deve essere una maniera. Fu un momento interessante, folcloristico, quello degli indiani metropolitani, ma fu subito risucchiato dalle attività dei centri sociali, che a volte erano anche lievemente meno leggiate nella loro manifestazione. Claudio Ricci, riprendiamo con lei e definiamo allora il flash mob organizzato oggi, come funziona, chi lo chiede e qual è l'effetto? Di solito c'è una finalità marketing dietro al flash mob, che può essere quella di promuovere un brand piuttosto che un'iniziativa. Si parla di virale, facciamo qualcosa di virale, si dice, che oggi è un termine che perché in realtà io non fa ammalare più nessuno. Sì, ho ascoltato gli interventi anche dell'ultimo ascoltatore e quello che volevo dire è che in realtà, diciamo, la finalità poi è quella di andare su un altro tipo di piazza, che è la piazza virtuale. Cioè, nel senso che l'evento in realtà poi viene ripreso da telefonini, telecamere, se è organizzato, diciamo, in un certo modo, ma poi il fine è quello di renderlo virale attraverso la rete. Quindi lo spostamento c'è tra la piazza fisica, dove in realtà si svolge l'evento, a un altro tipo di palcoscenico, che è quello del mondo di internet, di YouTube. Sì, infatti i grandi quotidiani, l'esclusiva, diciamo, del loro racconto di una manifestazione, pubblicare i video virali, appunto, fatti dalle persone che erano in piazza, molto più che i video ufficiali che si vedono ormai nella TV satellitare dopo, anzi a tempo reale, capito? Ed è questa la forte motivazione che spinge molte persone a partecipare all'evento, cioè il fatto comunque di avere la possibilità di rendersi visibili al di là del loro spazio e dell'evento, che poi di solito ha una durata estremamente breve, proprio perché flash può durare anche soltanto qualche secondo in alcuni casi. E quindi, ripeto, la finalità è quella di mostrarsi sulla piazza virtuale. Allora, Andrea Rossetti, il nostro ospite, praticamente ci fa capire come avviene il senso dell'osmosi. Praticamente la piazza fisica diventa un grande set in cui ciò che conta è la sopravvivenza, la permanenza che avverrà in rete, degli elementi clou, degli aspetti nascosti o degli aspetti non ufficiali. Il mainstream che legge la piazza dai numeri, celebra a seconda del punto di vista gli orrori o le glorie avvenute in quella piazza, viene in qualche maniera eroso dai tanti partecipanti che collocano e pubblicano da un'altra parte. Sì, bisogna dire che anche il mainstream però ha imparato a fare uso, no, di queste informazioni che arrivano dal basso, perché, come giustamente si diceva, effettivamente molto, sempre più spesso in televisione si vedono prodotti non fatti da operatori o giornalisti professionisti, ma da coloro che sono in mezzo a quello che sta accadendo. L'abbiamo detto più volte, in realtà ancora adesso, almeno in Italia, perché un evento abbia effettiva risonanza deve finire in televisione in qualche maniera. Beh, in questo la liturgia grillina aveva inventato l'operatore, esatto, con la macchinetta, esatto, con una specie di trespolo manufatto invece che la telecamera, poi il risultato è lo stesso, ma sembra qualcosa che è meno legato al potere, forse. No, è solo apparenza questa in realtà, no? Perché alla fine appunto i video che vengono presi e messi in diffusi televisivamente sono in realtà scelti dalla televisione, ancora una volta, che non sceglie assolutamente appunto quelli che non, in qualche modo non vanno bene, per qualche motivo non vanno bene, ma sono quelli, sceglie quelli che servono a verificare, a non, a no, o almeno non falsificare la tesi sostenuta da quella particolare televisione, da quel particolare giornale. Quindi bisogna stare molto attenti, insomma, perché non è vero che il punto di vista dell'operatore di strada è in qualche modo un punto di vista neutro o neutrale, semplicemente è un punto di vista che poi viene comunque riutilizzato per fare dire cose che magari l'operatore non aveva intenzione di dire. C'è stato proprio in questi giorni, qui a Pavia, un caso, c'è stata una manifestazione a cui hanno partecipato unicamente 400 persone, veramente pochissime, perché aveva la pretesa di essere una manifestazione nazionale, e l'operatore che l'ha ripreso è stato in qualche modo accusato di aver fatto male le riprese perché non si vedeva in realtà la reale folle che c'era. In realtà probabilmente no, no? Quindi la piazza, diciamo, cosiddetta virtuale, che è un termine che a me non piace, altro non è che un ulteriore punto di vista, ciò che avviene concretamente è un ulteriore punto di interpretazione nelle piazze concrete. Grazie agli amici e partecipanti. A domani.